corre un tempo che sembra fermo, ma passa, passa, passerà l'inverno. Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere. E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutti, sono le 15:06 minuti primi, questa è Rai Onda Rossa e questa è la conta, trasmissione contro il carcere di Rai Onda Rossa. E dunque, oggi siamo ormai a maggio, il caldo si fa sentire, sembra estate piena e come sappiamo per esperienza personale, quando il caldo, come dire, brucia il cemento, è chiaro che in carcere questa cosa si soffre molto di più che non fuori in città. I passeggi del carcere, laddove si fa la passeggiata, insomma l'aria, cosiddetta aria, sono dei vasconi di cemento che diventano dei bollitori quando appunto picchia il sole come oggi. Comunque, buona libertà. È quello il punto centrale per combattere sia il caldo e sia qualunque altro elemento che del carcere è l'aspetto, quindi la devastazione, l'annichilimento, la distruzione della personalità che il carcere persegue per ciascuno di noi buttato là dentro. Allora, i giornali di questa, proprio di due giorni fa, avevano la Repubblica, due giorni fa abbiamo letto questa notizia, iniziamo da questa perché potrebbe essere qualcosa di positivo, anche se, e vediamo intanto le inadempienze. Allora, la Repubblica del 5 maggio diceva: Roma, le ville della mafia per i bimbi detenuti. Qual è il problema? Che c'è stato un accordo tra il tribunale che gestisce appunto le ville confiscate a persone coinvolte con la mafia, il accordo quindi tra il tribunale che gestisce queste ville sequestrate, tra il comune e il DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, perché appunto qui racconta un po' l'articolo, c'è stato questo incontro tra l'assessora Francesca Danese e il magistrato appunto che Guglielmo Montoni, che gestisce queste ville sequestrate dalla mafia, e si è pensato che potessero essere utilizzate per farne diciamo per trasferire l'asilo nido che sta dentro il carcere di Rebibbia in questa casa, quindi far uscire, anche se non proprio del tutto, comunque far uscire intanto i bambini da 0 a 3 anni, poi con la nuova legge da 0 a 6 anni che hanno le madri detenute, farli uscire dal carcere. E questa è la cosa, pare che appunto sono due ville di 500 metri quadrati l'una, quindi abbastanza grandi, circondate da giardino, eccetera, eccetera. Vabbè, le ville si prestano. Quello che non si capisce, l'articolo non lo precisa, ed è strano, oddio, non è strano perché è la consuetudine, però è, come dire, è abbastanza ridicolo vedere che gli articoli sul carcere, soprattutto sul carcere, ma penso anche su altri, ma sul carcere perché lo verifichiamo giorno per giorno, sono sempre incompiuti, grossolani, superficiali. Allora dice qui, no, praticamente che appunto, poiché c'è la nuova legge, che è quella del 2011, che porta i bambini fino a 6 anni a dove stare con la madre, e se la madre è detenuta ovviamente stanno in carcere anche loro, e non si è riusciti a tirar fuori nonostante le leggi fatte, perché le leggi fatte, che sono state fatte alcune leggi dal 2000 per far sì che le donne che avessero dei figli, donne detenute che avessero dei figli, potessero scontare agli arresti domiciliari il resto, la condanna, in modo che avere i bambini almeno a casa in situazioni non detentive. Però il problema è che poi, come queste leggi, come si fanno sempre in Italia quando riguardano problemi del carcere o comunque della cosiddetta lotta contro la cosiddetta criminalità, ci stanno tante eccezioni. La prima è la recidiva, quando quella legge si applicava tranne che alle donne detenute che siano rese colpevoli di recidiva, cioè che avevano compiuto il reato più di una volta, e queste erano impedite, quindi poi quelle che non avevano un domicilio che poteva essere controllato dagli agenti di polizia e così via. E per cui un gran numero, l'abbiamo sempre denunciato, di donne detenute rimanevano in carcere con i loro bambini o bambine, ed è una cosa che non ci sono aggettivi per definirla. Definirla barbarie è assai poco. Far nascere un bambino o una bambina in carcere e tenercelo fino a 6 anni, prima era fino a 3, adesso è fino a 6, insomma è una cosa a dir poco vergognosa. Qual era la soluzione che hanno trovato il sistema carcerario italiano? Quello di fare gli ICAM. Gli ICAM sarebbero istituti a custodia attenuata per madre. Allora, anche questo è un ibrido, l'ICAM è a metà strada tra un carcere vero e proprio, perché del carcere ha tutte le caratteristiche, e una casa d'accoglienza, che invece è un po' diversa dal carcere. L'ICAM sta a metà strada, più vicino al carcere che alla casa d'accoglienza, perché essendo un carcere ha il controllo degli agenti di polizia penitenziaria esterna ed interna, non girano per i corridoi a contatto con i bambini, ma questo, solo questa è la differenza, però le regole interne sono più o meno le stesse di un carcere. La casa di accoglienza è diversa, è gestita da personale non in divisa, quindi non di polizia penitenziaria, ma assistenti sociali, e il meccanismo di mobilità è diverso da quello di un ICAM. Gli ICAM sono stati fatti 2 soltanto, a Milano e a Venezia. Insomma, chiaramente sono meglio di un carcere, però niente di non c'è libertà, quella non c'è da nessuna parte, al limite nemmeno nella casa d'accoglienza, ma soprattutto quello che respirano questi bambini o bambine fin dalla nascita è una sensazione di clausura, di chiusura, di impedimento di spostamenti, perché lì anche se ti puoi muovere da una parte all'altra, devi chiamare qualcuno che ti apre un cancello, una porta, devi sapere che a quest'ora si può uscire, a quest'altra ora non si può uscire, vorresti andare al parco giochi a giocarci e sai che in quest'ora non ci puoi andare, a meno che non viene appunto l'assistente sociale perché ti ci porti, non ti ci può portare tua madre, insomma il disastro del disastro. C'ha le bruttezze del carcere, con tutto l'aggravante che qui si parla di bambini e bambine proprio in tenera età, che dovrebbero respirare almeno nei primi anni di età, dovrebbero respirare il massimo di libertà, anche se poi sappiamo che dopo verrà pesantemente negata o comunque impedita o comunque ridotta. Ma insomma, questi sono gli ICAM. Ora, quello che non si capisce di questo articolo è se queste due belle ville, come sono descritte qui, se erano due belle ville immerse nel verde, d'altronde erano ville delle persone poi coinvolte nella mafia, quindi chiaramente si erano comprate delle belle ville, queste due belle ville verranno avviate a un regime interno come quelli degli ICAM, cioè faranno lì un ICAM, un istituto per custodia attenuata per madri, quindi però un carcere, quindi dovranno spostare lì la polizia penitenziaria, ci saranno il controllo esterno delle guardie, i regolamenti interni simili al carcere eccetera, oppure se faranno una casa d'accoglienza che ha un regolamento del tutto diverso dall'ICAM. Questo è la cosa che non si capisce, non si sa cosa stanno facendo, cioè non si sa i lavori quando cominceranno. Qui la Repubblica, come fa sempre, che o applaude o biasima, l'avete visto, no? Allora è pronta, tutti i giornali non hanno una riflessione critica su ciò che succede. Questo è vero da parecchio tempo. Forse non era così all'inizio, quando nacque il giornalismo, che era dedito più che altro a fare inchieste, a portare i fatti sulla carta stampata. Adesso i giornali sono o si plaude un intervento oppure si critica ferocemente, perché così si diventa notizia, capito? Urlare che bello oppure che brutto pare che faccia notizia. Questa, qui c'è un applauso forte, l'applauso all'assessora Francesca Danese, al magistrato ritenuto coraggioso Guglielmo Montoni, al DAP che dovrà fare i lavori per trasformare queste due ville in luoghi dove potranno starci le donne detenute con i loro bambini, insomma applaude tutto, però non ci dice quale sarà. Poteva intervistare qualcuno del DAP, cioè gliel'avrebbe detto, ma forse non sa nemmeno che esistano diversi regimi detentivi. come appunto quello dell'ICAM o quello della casa d'accoglienza, che sono due sistemi diversi. Infatti, da quanto si capisce, poiché viene portato spesso il termine ICAM, probabilmente sarà l'ICAM che devono costruire a Roma da tempo, poi hanno fatto vari progetti che sono saltati perché hanno individuato dei posti impossibili, dei luoghi nei parchi da far diventare carceri, cioè la gente del quartiere giustamente si è un po' arrabbiata e ha detto è una vergogna, insomma, e quindi passi che torneranno su questo. E vabbè, questo è l'articolo dell'altro ieri sulla Repubblica, che ci dice queste cose qui. Noi vediamo, insomma, che vedremo un po', che cosa succederà. Lo vedremo col tempo. Intanto ci sentiamo un po' di musica. Smettere mai! Allora, 15 e 21 di nuovo in diretta. Allora, vogliamo raccontare un po', cioè far conoscere soprattutto a chi ha problemi con la cosiddetta giustizia, sono cambiate alcune leggi, sono diventate, di cui si parlava, di cui abbiamo anche parlato, sono diventate leggi dello Stato, quindi attualmente in vigore. E sono due sostanzialmente quelle che sono viaggiate all'interno di tutto quel bailam di chiacchiere, ma anche qualcosa fatto, però fatto male come al solito, di fretta, abborracciato, vabbè, senza affrontare il tema e mettere in discussione il problema del carcere e del sistema sanzionatorio. Insomma, ricordate i famosi svuota carceri, ben 4 provvedimenti che nel corso degli anni, perché gravava sulla testa dello Stato italiano il rischio di prendere altre multe da parte della Corte europea per il modo inumano e degradante in cui trattava le persone detenute, è chiaro che il governo si è affrettato a fare dei cosiddetti provvedimenti svuota carcere, non solo per cercare di svuotare l'immenso numero di detenuti che era arrivato oltre circa 70.000, ma anche per rallentare l'ingresso in carcere. Allora, due sono stati i provvedimenti. Uno che ha riguardato alcune modifiche al codice di procedura penale, che riguarda in particolare la custodia cautelare, cioè la possibilità di andare in carcere prima del giudizio. Nella fase istruttoria si diceva una volta, adesso non si chiama più fase istruttoria, però nell'inchiesta per arrivare al processo. Sono state molto ristrette, adesso le vedremo. L'altro riguarda la tenuità del reato, ossia che alcuni reati dichiarati di particolare tenuità, cioè piccoli, che non creano grossi problemi, e che siano la prima volta, possono essere può essere evitata la sanzione penale. E l'altro ancora, quello della messa alla prova. Allora vediamo, sono diventate leggi dello Stato da pochi giorni e quindi sono attuali. Intanto vediamo quello della custodia cautelare. Ricordate che uno dei punti centrali, fondamentali, che era la critica, che costituiva la critica della Corte europea allo stato delle carceri italiane, cioè a come lo Stato italiano teneva in condizioni disperate, disumane, degradanti i detenuti e le detenute, riguardavano l'alto numero delle persone non condannate, quelli in custodia cautelare, appunto, no? O carcerazione preventiva, prima si chiamava così, è quello sempre il problema, cioè essere messi in carcere prima che è scattata la condanna. Era intorno al 40%, altissimo, la media europea è il 15%, quindi stavamo oltre il consentito dei meccanismi europei. E allora si è voluto, per rallentare, perché anche se si facevano uscire parte di quei 70.000, come poi si è fatto per arrivare a 56.000, cifra attuale, è chiaro che l'aumento degli ingressi avrebbe riportato quella situazione non accettabile dalla Corte europea, cioè l'alto numero delle persone detenute, e quindi hanno cercato di restringere la possibilità al giudice di applicare la custodia cautelare, cioè il carcere prima della condanna. È entrata in vigore. In realtà adesso il meccanismo è questo: la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Che vuol dire? Questo è un po' il senso della legge in questa frase. Che vuol dire? Vuol dire che la custodia cautelare in carcere, cioè mandare una persona in carcere non ancora processata, si può fare soltanto se risultano inadeguate per quella persona tutte le altre misure coercitive oppure interdittive. Coercitive significano comunque altre limitazioni della libertà, che sono possesso di arresti domiciliari, prevalentemente gli arresti domiciliari. Quelle interdittive sono quelle che dove c'è il divieto di frequentare degli ambienti, di girare per la città in certe ore, di uscire fuori dal comune. Ecco, quelle interdittive vietano di fare alcuni spostamenti, quelle coercitive ti impongono di stare in un certo posto, in genere al proprio domicilio. solo se queste si risultano anche comunitarie in maniera cumulativa, perché possono essere ampliate l'una e l'altra insieme, se solo se risultano inadeguate si può fare, si possono applicare la custodia cautelare in carcere. Parliamo sempre della fase prima del processo, dopo la condanna chiaramente, se uno è condannato poi scattano altri meccanismi che li vedremo in seguito, o comunque il carcere, che però può essere anche questo, o la messa alla prova o altre cose. Comunque il problema qual è? Che il giudice, se vuole applicare la custodia cautelare, cioè il carcere prima del processo, a una persona, deve fare una dettagliata relazione in cui spiega con comprovate misure, con relazioni, con l'appoggio di relazioni della polizia e altro, che le misure coercitive e anche quelle interdittive non valgono per questo, cioè non sono validi, non sono utili a mantenerlo a disposizione della giustizia, questo è il termine che si usa. E quindi domani, oggi è 7, domani proprio l'8 maggio entrano in vigore queste norme, e qui per cui non si può più tenere in carcere, mandare in carcere una persona prima del processo, se non appunto come estrema razio, così dice la legge. Bene, poi chiaramente questa cosa la tratteranno gli avvocati, però comunque è importante, perché perlomeno insomma la gran parte delle persone, appunto un 40% di detenuti e detenute che stavano in carcere non essendo ancora state condannate, a parte che è una violazione di tutti i principi e va bene, ma proprio è un'offesa anche alle persone, perché se uno deve prepararsi la difesa, quindi ragionare con calma, parlare con l'avvocato, poter preparare la difesa in attesa del processo, no? Per discolpare, per togliere le colpe che gli sono state attribuite, è chiaro che ha bisogno di una tranquillità minima, no? Quindi invece andare in carcere, che ti toglie tutta la tranquillità e anche soprattutto il primo periodo, e anche la possibilità di riflettere, di ragionare, perché devi fare i conti col carcere, con quel mostro che ti piove addosso improvvisamente e ti toglie tutte le energie, soprattutto quelle di riflettere, di ragionare con calma, per cui è chiaro che una persona che va in carcere prima del processo non riesce a preparare, a discutere bene tranquillamente con l'avvocato la linea di difesa, e quindi è anche una violazione del diritto della difesa. Per cui questa applicazione è venuta tarda, perché se ne parlava, pensate, dall'immediato dopoguerra, in quanto l'uso massiccio della custodia cautelare, cioè del carcere prima del processo, è un meccanismo del regime dittatoriale che abbiamo vissuto, e chiaramente del fascismo, perché il problema era buttare la gente in carcere e poi i processi con la lunghezza si facevano dopo anni e anni, però intanto quello o quella stava in carcere. Questo è il meccanismo, violava tutti i principi. Beh, infatti il fascismo non aveva problemi di violare i principi, che poi lo hanno fatto anche le democrazie liberali, quando avevano un problema, diciamo, di ordine pubblico che gli sfuggiva di mano, di controllo dell'ordine pubblico che gli sfuggiva di mano, perché ci potevano essere proteste popolari, perché la gente stava male, perché perdeva il lavoro o altre cose. In quel momento applicavano la custodia cautelare in carcere. Quindi è un po' un meccanismo che gli stati usano, non solo quelli dittatoriali, anche gli altri, quando non riescono con i mezzi politici a gestire, diciamo, la popolazione. Ricordate che è sempre questo meccanismo: quando la giustizia entra dentro la vita sociale, quando quindi il carabiniere, la polizia, il magistrato, il processo entrano a dirimere le controversie, le conflittualità sociali, vuol dire che c'è una carenza di gestione politica del sociale. Per spiegarmi bene, mettiamo quando ci sono, per esempio come adesso, no? I conflitti del lavoro, che sono pochi rispetto a quanti dovrebbero essere, perché il peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle persone, diciamo del mondo del lavoro, della classe lavoratrice, sono state spaventose. Il peggioramento è stato proprio secco negli ultimi anni, quindi ci sarebbe bisogno di lotta, poi per tanti motivi, per l'organizzazione sindacale inadeguata, per tanti motivi, e ci sono poche queste lotte. Ma quelle che ci sono, come leggete dai giornali, oppure dai giornali manco lo dicono, insomma, quello si sa più o meno da questi microfoni o da altri microfoni che parlano di queste cose, vedono spesso l'intervento della forza pubblica. Ora, quando la forza pubblica interviene nei conflitti del lavoro, attenzione, questo è un test importantissimo e decisivo, è l'elemento decisivo che ti fa scattare sul fatto se quel paese ha una politica bello brutta, uno può essere d'accordo o meno, però ha una gestione politica da parte del governo, del Parlamento, delle istituzioni in grado di dare risposte alle richieste, al malessere, alla vita della, quindi al sociale, alla vita della gente, oppure non sa dare risposte. Se non sa dare risposte scatta il meccanismo poliziesco. Quando c'è l'intervento della forza pubblica nel mondo del lavoro, vuol dire che il potere politico, il governo, il Parlamento, cioè hanno fatto un si sono praticamente autosciolti di fatto, perché il problema allora è quello, non fare le stupidaggini, no? Non fare leggi come il Job Act, no? Questa ma dare risposta al malessere delle persone. C'è un alto livello di disoccupazione in Italia, per esempio, il governo dovrebbe dare risposta, l'hanno fatto in altri periodi trovando interventi pubblici e altro tipo, dare risposta alla carenza di lavoro e quindi per tamponare questa falla, questo 40% di disoccupazione. Non fa questo perché non è capace e non vuole prendersi le responsabilità di governare, e allora fa un altro discorso, dà mano libera ai padroni privati perché facciano loro l'intervento e l'investimento e quindi creino i loro posti di lavoro, ma lo fanno solo se gli interessa, quelli si tirano fuori grossi profitti, per cui gli dà mano libera di sfruttare, cioè, questo è l'imbarbarimento, cioè è proprio il contrario della politica questo modo di fare, no? Difatti vedete che in questi giorni, no, sui conflitti, quei pochi conflitti del lavoro, quelli territoriali, sugli sfratti, su queste cose qui, ci dovrebbe essere l'intervento delle istituzioni, una persona sfrattata per cedere, interviene il comune, la regione, la provincia, che dà soluzione a quella controversia. No, uno non c'ha più, è stato licenziato, vediamo, non c'ha più salario, non può più pagare l'affitto, gli arriva lo sfratto, la tensione, no, tra il padrone di casa e l'affittuario, interviene il pubblico e dice vabbè, ti do un contributo per poter pagare l'affitto oppure ti offro un appartamento di edilizia pubblica. Così funziona, così deve funzionare il mondo. Il resto è dittatura della peggior specie, barbarie immonda, è peggio della mafia, è molto peggio della mafia quello che fate. Manda la forza pubblica, c'è una controversia, uno non può più pagare l'affitto, c'ha lo sfratto per morosità, arriva la forza pubblica. No, deve arrivare l'istituzione, se no che ci sta a fare il comune, che ci sta a fare la provincia e la regione? Devono dare risposta a queste. Ecco, quando non c'è risposta politica su problemi sociali, ma quella militare, quindi la forza pubblica, eccetera, vuol dire che non c'è capacità di gestire. E quindi arriviamo al problema. Quindi, come vedete, la custodia cautelare, infatti, che non a caso è criticata anche dalla Corte Europea, perché la Corte Europea, che sono dei magistrati che vivono all'interno dei grandi principi del liberalismo, eccetera, dicono se ci sono problemi, cioè la violazione della legge manifesta una difficoltà della gente di continuare a vivere all'interno delle regole stabilite dalle leggi. Questo è, no? La legalità significa la possibilità delle persone di trovare la risoluzione dei propri bisogni all'interno delle regole stabilite dalle leggi esistenti. Se la gente, tanta gente, viola quelle leggi, vuol dire che quelle leggi non consentono di vivere dignitosamente. Questo è. E a quel punto il politico, le istituzioni che stanno lì per questo, dovrebbero modificare quelle leggi, dare contributi e fare in modo che la violazione della la costrizione, essere costretti a violare quella legge, non sia più così massificato. Se invece mandano carcere, forza pubblica, eccetera, vuol dire che hanno abdicato a quel ruolo della gestione politica della cosa pubblica. Tanto semplice, no? Quindi questo non è un governo, per esempio questo che abbiamo, questo è un banditone, non so che, cioè non ha importanza, ma non fa politica, fa solo intralazzi, impicci, imbrogli. Ecco, e quindi per questo la Corte Europea ha detto attenzione che l'alto numero di persone in custodia cautelare, cioè non ancora processate, quindi non sappiamo se sono colpevoli o innocenti, il processo sta lì per quello, per dimostrare se una persona in base alle leggi esistenti è colpevole o innocente, poiché l'alto numero, 40% stanno lì, vuol dire che lo Stato italiano non ha un problema di legalità, ma ha un problema di repressione, ossia ha piegato la legalità alla repressione, cioè vuole intimorire, spaventare la popolazione, e quindi li prende e li sbatte in carcere prima ancora di stabilire se sono, quindi attenzione, dice che avete violato i principi, diciamo, del diritto, che solo una persona quando è ritenuta colpevole, bla bla bla, no? Questa è la tirata d'orecchia, a parte la multa salata che hanno messo a Italia, il messaggio della Corte Europea allo Stato italiano è questo. Ma era un messaggio rivolto anche a noi cittadini, però i cittadini italiani in questo periodo sono un po' sordi, ciechi e anche un po' stupidi, bisogna dirlo, ci sono periodi di stupidità diffusa, per esempio questo, e periodi di meno stupidità, è così, è inutile voler essere belli per forza quando si è brutti, si è brutti, quindi sono brutti e stupidi in questo periodo, ma possono cambiare anche domani mattina, anzi speriamo che domani mattina cambino, per esempio partecipando ai conflitti del lavoro che ci sono, rispolverando la solidarietà, che in Italia ha una tradizione tra le più belle del mondo, la solidarietà proletaria, no? Quindi intervenendo sulle lotte che altri settori proletari fanno. La critica quindi era non tanto al fatto che sono troppi quelli che stanno in cui come diceva, è un fatto tecnico, ma non è tecnico, era una critica di civiltà, cioè, non siete un paese civile perché utilizzate il terreno giudiziario e il carcere per tamponare problemi sociali che meriterebbero il vostro impegno come istituzioni, come governo, parlamento eccetera, per tamponare i problemi che esistono. Quindi questa era la critica e hanno dovuto quindi fare questa legge. Bene, questa legge adesso dovrà, perché così è stata scritta, praticamente il giudice per mandare una persona in carcere prima del processo dovrà scrivere tante di quelle relazioni, anche in prova di fatica, gli comporterà tanta di quella fatica perché deve scrivere relazioni, portare pezzi d'appoggio eccetera eccetera, per cui è più facile che gli dia gli arresti domiciliari oppure le firme o altre cose. Allora, 15:39, l'altro problema è quello della messa alla prova, diciamo, di quel cartello di provvedimenti che hanno messo in atto per quelli svuota carcere, per allentare un po' la presenza, e questi, come la custodia cautelare che abbiamo analizzato prima, e questo della messa alla prova per evitare la quantità di ingressi e quindi di nuovo l'innalzamento delle presenze. La messa alla prova è un provvedimento che c'è sempre stato, però riguardava i minori. Praticamente i minori, quelli di sotto i 18 anni, hanno sempre avuto nel diritto minorile italiano questa possibilità che un ragazzo, una ragazza che faceva un reato invece di passare attraverso il carcere veniva messo alla prova, messa alla prova che è anche un meccanismo diffuso un po' in tutto il mondo, è un ai primi, soprattutto al primo reato o ai primi reati, i primi insomma, non viene fatto passare per il carcere secondo l'idea che hanno maturato tanti di quelli che analizzano il carcere anche stando dall'altra parte, che la presenza, andare a mandare in carcere dei ragazzi o ragazze giovani significa solo buttarle in braccia della criminalità organizzata, perché poi in carcere quello trovano, no? E quindi insomma non è che si fa tutt'altro che rieducazione, ovviamente, per rimanere nei tempi, nei termini che appunto usano questi qua. Insomma, la messa alla prova significa anche qui solo una sorta di misura alternativa. Praticamente dicono: il primo reato non lo tratto proprio come questione penale, nemmeno il processo si fa, prende in carico un magistrato di dire: tu adesso praticamente ti teniamo gli occhi addosso, poi di nuovo riprendere la vita attiva, però verrai controllato da assistenti sociali, polizia eccetera, per vedere come ti comporti. Se ti comporti bene il reato viene cancellato, se ti comporti male invece torna al meccanismo carcerario. Questa è la messa alla prova, e che anche questa è una legge che però qualcuno ha pensato di utilizzarla per le sentenze avvenute prima dell'approvazione di questa legge. E allora c'è stata la Corte di Cassazione che in una udienza tenuta proprio il 4 maggio scorso scusate, ha definito non è retroattiva questa misura, la messa alla prova, quindi non si può applicare sulle sentenze andate giudicato prima dell'approvazione di questa legge. Può essere applicata solo dalle sentenze che verranno fatte da adesso in poi. E vabbè, questo era abbastanza comprensibile, però perché in realtà difficile che i provvedimenti abbiano un carattere retroattivo. In genere valgono dal momento che va approvati in avanti. Questo però, siccome la messa alla prova è una sorta di misura alternativa o comunque di meccanismo di rallentare l'ingresso in carcere e utilizzare come ammortizzatore, no? Molti pensavano che potesse essere applicata anche a quelli che erano stati condannati prima, ma invece la Corte di Cassazione dice che non è così. E questo è il problema, però quello che è importante è che anche questo va in qualche modo a da adesso in poi, oltre la limitazione della custodia cautelare, cioè dell'andare in carcere prima della sentenza, c'è anche questa possibilità della messa alla prova, cioè chi si trova a dover avere a che fare con il primo reato, si trova impicciato tra polizia, magistratura eccetera, puoi chiedere la messa alla prova e da adesso in poi è possibile. C'è questa legge che dice appunto che uno chiede, ovviamente tramite l'avvocato fa la richiesta della messa in prova e verrà messo in prova, che significa che continua appunto a vivere come prima con un controllo da parte appunto della struttura dell'ufficio penale esecuzioni esterne e che sono appunto assistenti sociali e anche delle forze di polizia, per verificano soprattutto che non frequenti gli ambienti che l'hanno portato precedente a fare. È un po' una misura interdittiva, è una cosa un po' come il DASPO, se volete, che tutti conoscono perché è applicato alle curve degli stadi. Il DASPO è un meccanismo che ha il divieto di andare, se uno viene arrestato o incriminato o comunque denunciato durante una manifestazione sportiva, prevalentemente nella quella calcistica, gli viene messo il divieto di frequentare altre iniziative sportive, quindi nel giorno che ci sta l'iniziativa sportiva deve andare in commissariato a firmare, quindi se sta al commissariato a firmare non può andare allo stadio, e questa è la misura interdittiva. Questa messa alla prova è una sorta di misura interdittiva, cioè ti voglio, o comunque come si dice in termine giuridico invalidante, cioè vogliono invalidare la presenza di alcune persone agli ambienti che li hanno portati, o comunque che loro credono che l'abbiano portati a trasgredire la legge. Questo è un po' il meccanismo della messa alla prova. Vedremo come si svilupperà, come verrà applicato, e insomma. Ora, mi rendo conto che è un po' fastidioso parlare di queste questioni tecniche, molto astruse, anche un po' rigide, però quello che c'è sotto queste questioni tecniche è la libertà oppure la non libertà delle persone, quindi è importante conoscere, perché diciamo, il diritto di ciascuna e di ciascuno di noi in primo luogo è tutelare la propria libertà e anche di quelle persone che con i quali facciamo delle cose che conosciamo. Quindi conoscere queste cose che riguardano la nostra libertà non è compito solo degli avvocati, è compito anche un po' nostro, perché in effetti con queste cose possiamo perdere la libertà oppure riacquistarla, o comunque acquistarne un pezzetto, comunque districarsi negli imbrogli del sistema giudiziario. E allora è bene conoscerle un po', insomma, poiché credo che la gran parte che ci ascolta, attenzione, o per problemi propri o di altri, al problema, diciamo, del giudiziario, queste cose, però è chiaro che sono argomenti molto astrusi, molto tecnici, molto farraginosi, un po' brutti, per cui ce ne scusiamo. Allora, torniamo indietro. Dopo lasciamo stare queste questioni tecniche, come diciamo, importanti, perché ci va di mezzo la nostra libertà. Vediamo però che cosa ci dicono tutti questi provvedimenti che stanno fiorendo qua e là. Considerate che dal 2011 ad oggi ci sono stati 4 provvedimenti cosiddetti svuota carceri, che hanno cambiato un po' i meccanismi, per cui tutte quelle norme che qualcuno di voi, no, se legge per esempio il quaderno di Scarceranda, che ci stanno tutti i meccanismi con cui, ecco, andrà rivisto il prossimo numero, perché i cambiamenti sono stati notevoli, e quindi tutto questo meccanismo, favorire appunto la messa alla prova, ridurre la detenzione domiciliare, la custodia cautelare prima del processo, renderla meno invasiva, così come la possibilità di scontare in misura alternativa al di sotto dei 4 anni di condanna, e insomma tutta questa serie di meccanismi che abbiamo più volte analizzato in questi periodi. Che cosa ci dicono, che cosa ci fanno intravedere? Che in realtà il sistema carcere si sta un po' spostando. Ed è vero, per tanti motivi, l'hanno detto da tempo, è molto lento questo spostamento, però è reale, è nei fatti. Cioè, si sta spostando dal sistema detentivo, puramente detentivo, cioè prendi la persona, la butti dentro e lo chiudi a chiave, che è il carcere vero e proprio, a un sistema un po' più diffuso nel sociale, sistemi di controllo diffusi nel sociale. Questo cambiamento avverrà probabilmente, queste sono le tendenze, nei prossimi decenni. Sarà molto lento, però vedrà sempre più scusate che sta raucedine che ho non è colpa mia, è colpa di questi sbalzi di temperatura. Comunque ciò porterà nel corso di alcuni decenni alla riduzione della presenza in carcere e dall'aumento enorme dei controlli esterni nel sociale, nella nostra vita quotidiana. Questo processo, questa tendenza risponde a due obiettivi. Uno è quello di ridurre la presenza in carcere, che è costosissima. Voi considerate che in un carcere su 200 presenze ci stanno 150 guardie, per 200 detenuti ci stanno 150 tra guardie, personale civile, eccetera. Quindi pensate quanto costa. Poi in più il costo della struttura, i servizi elettrici, e la struttura costa tantissimo, perché non è fatta solo di cemento e ferro, ma sistemi di allarme, è costosissima, insomma. Quindi è un problema di ridurre dal punto di vista della... È un problema che in realtà non è vero che crea molta deterrenza la presenza delle persone in carcere. Intanto perché per tanti motivi che abbiamo analizzato più volte, no? Intanto quello del costo, dell'aumento del costo dei terreni, hanno spostato le carceri molto in periferia, quindi non sono più visibili. Le carceri anticamente venivano fatte al centro della città perché fosse visibile, cioè la gente, come dice il Beccaria nel suo libro, deve vedere quello che passeggia, quindi deve stare al centro della città, che passeggia giorno dopo giorno, anno dopo anno, decennio dopo decennio in quel bugigattolo, perché ne vede l'ombra passare e quindi spaventa trasgredire la legge, perché dicevi no, vado a fare la fine di quello là. Adesso il carcerato non lo vedi più perché sta appunto molto lontano dalla città e quindi non ha più quella deterrenza, mentre invece conviene portare la deterrenza dentro la realtà sociale, ossia i controlli intersociali all'interno, sul lavoro, i domiciliari, sui percorsi che fai per andare da casa al lavoro, eccetera eccetera, sono, secondo appunto alcuni studiosi, più efficaci, perché li vedono gli altri, ti vedono. Quello che succede in carcere non lo vede nessuno. Anche un pestaggio non è che lo vede la gente, vedono il pestaggio, perché sì, poi si viene a sapere, se ne viene a sapere uno su 10 quando va bene, perché c'è denuncia, cioè, però non lo vedono, non lo sentono, quindi non crea problemi. Crea problemi al detenuto, lo distrugge, l'ammazza, però non è che crea deterrenza agli altri, cioè spaventa gli altri che stanno fuori. Invece vedere i controlli in mezzo al quartiere, al territorio, è importante, perché secondo alcuni questo qui permetterà di avere e portarle a deterrenza più prossima, di prossimità, come si dice, cioè vicino alle persone che devono essere tenute a bada nella loro volontà di trasgredire la legge, perché ne hanno bisogno, ne hanno necessità, però quella paura. E quindi si può vedere la persona che stava tranquillamente in misura alternativa, improvvisamente viene preso e portato via perché ha trasgredito un orario, perché è rientrata a casa mezz'ora dopo, perché è uscito mezz'ora prima, o perché ha visto persone che non doveva incontrare. Ecco, tutto questo meccanismo qui, l'idea dei signori che gestiscono la repressione è portare la repressione di prossimità, cioè all'interno delle relazioni sociali, all'interno dei territori. Ecco, questa, la galera dovrebbe diventare in mezzo a noi. Non sappiamo se questa cosa succede, però per esempio anche negli Stati Uniti d'America, che è il paese che ha più di tutti gli altri utilizzato il carcere, l'America è quella, gli Stati Uniti d'America è quello che c'ha il numero di carcerati rispetto alla popolazione, l'indice più alto di persone carcerate in confronto alla popolazione presente negli Stati Uniti, ma di gran lunga superiore agli altri, 10 volte quello l'indice che c'è in Europa, che pure non scherza, superiore a quello che c'ha, il doppio di quello che c'ha la Cina, insomma tantissimo, molto molto alto. Perché? Perché pure loro hanno pensato, no? Si vincevano le elezioni dicendo io combatto il crimine, quindi tutti in galera, un po' come dice la Lega, come dicono questi capoccioni che stanno qui in questo paese. Poi però hanno visto che è costosissimo, è molto costoso il carcere, non risolve nessun problema, aumenta la tensione sociale invece che diminuirla, e quindi non porta nessun vantaggio. E quindi anche per esempio in questi giorni che è cominciata la battaglia elettorale, no? Per il prossimo presidente statunitense, e Hillary Clinton è scesa in campo, e il primo problema che ha portato è proprio quello di diminuire molto il carcere. Pensate un po', proprio il marito suo, Bill Clinton, era stato uno di quelli che sull'onda per fare concorrenza ai repubblicani, lui era democratico, è ancora democratico, così come la moglie Hillary Clinton, però aveva, per fare concorrenza appunto, gli levavano i voti, ha detto anche noi combattiamo il crimine, anche noi portiamo la gente, buttiamo la gente in galera, e quindi aveva enormemente ampliato la presenza. Pensate che qualche tempo fa, un anno o due anni fa, ancora, quando ha raggiunto il massimo intorno al 2010-2012, gli Stati Uniti d'America avevano oltre 2 milioni di persone detenute, cioè intramurarie, che stavano in carcere, e 3 milioni e mezzo in controllo penale esterno, quindi oltre 5 milioni di persone in controllo penale. È allucinante, veramente, cioè 5 milioni di persone, una cosa mai vista. Ebbene, vogliono cominciare a diminuire, ha proposto una serie di misure, più o meno l'ordine di queste che si discute in Italia, in Francia, dappertutto, di ridurre la presenza delle persone in carcere spostando il controllo sul territorio. Non è una cosa facile, diciamo, perché dovranno riciclare la polizia penitenziaria, che adesso hanno una chiave in mano e il manganello nell'altra, questa è la polizia penitenziaria, quindi non è, e mentre invece muoversi nel territorio ci vuole una preparazione maggiore, anche una capacità maggiore, vabbè, insomma, vedremo se riusciranno a farlo. Questa però è la tendenza. Che significa per noi, tutti noi che viviamo nei territori, che viviamo nei territori e che vogliamo che i territori diventino terreni favorevoli alla nostra azione di cambiamento sociale e delle nostre condizioni e di quelle di tutti e tutte, e soprattutto per una società meno barbara di quella attuale? Bene, significa che dovremo attivarsi molto di più, decine di volte di più di quanto facciamo ora, sul territorio, per fare in modo che questo controllo territoriale, quindi questo spostamento del carcere dietro le mura al carcere nel territorio, diventi una cosa che non funziona, cioè fargliela fallire, non fargliela funzionare questo meccanismo di massima deterrenza. Bisogna appunto fare in modo che fallisca, con una presenza e con una serie di iniziative territoriali, con lo sviluppo di un sistema di comitati territoriali in grado di affrontare tutti i problemi, quindi anche quello della repressione, ciò può avvenire. Questo sta avvenendo, c'è poco da fare, sta avvenendo, va seguito attentamente. È un vantaggio, perché chiaramente la gente in carcere significa fare dei crimini, veramente sono persone sottoposte a tortura. Il carcere, anche quello con le tendine rosa, è una tortura, perché ti toglie l'elemento centrale della vita degli uomini, ossia la libertà, il tempo, lo spazio, le relazioni, quindi tutto, l'identità pure. Quindi non è inutile scherzare, il carcere è tortura. È chiaro, quindi toglierli da lì è un vantaggio dal punto di vista delle persone che stanno in carcere, per loro sarà un sollievo uscire da quell'inferno, però sul piano sociale può rischiare di essere un peggioramento del sistema di controllo sociale, perché questo sarà diffuso sul territorio. Quindi la battaglia adesso si gioca qui sul territorio, e sui territori bisogna sviluppare comitati che siano presenti nelle strade 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, non ogni tanto, non facendo feste, iniziative, quelle ci possono pure stare, ma non contano niente se non c'è la presenza organizzata e quotidiana, minuto per minuto, sul territorio. Altrimenti questo controllo territoriale sarà peggiore della galera. Questa è la sfida che abbiamo di fronte. Bene, diciamo, però, visto che questa è la tendenza, vale la pena affrontare, per vedere gli elementi che tornano nel controllo penale esterno, quindi bisogna affrontare e ripercorrere tutti i sistemi di devastazione contro l'individuo che avvengono nel carcere, quindi ripercorrerli tutti minuto per minuto, tutti i meccanismi di tortura, di devastazione, di annichilimento, di abbrutimento che avvengono in carcere, misurarli nella loro valenza esterna e confrontare quindi il cambiamento. Per cui dobbiamo tutti farlo, è un obbligo, è inutile sottrarsi, riconsiderare che cos'è il carcere, non solo quindi spazi ristretti, docce che non funzionano, intonaci scrostati, non quello, e non è quella la parte minima, e se volete molto quello poco significa, ma che cosa subisce l'essere umano che viene costretto a una violazione della sua libertà, quindi del suo tempo, del suo spazio, del sistema relazionale e della sua identità. Questo è il lavoro che dovremo fare, ripercorrere insieme il carcere per capire in questo spostamento che cosa trascinerà il carcere diffuso nel territorio, che sta avvenendo. Ovviamente i tempi sono lunghissimi, lentissimi, e però è una sfida importante, perché se riuscissero a fare questo meccanismo, cioè a portare il carcere nel territorio, è chiaro che è la fine di ogni possibilità di cambiamento sociale. Quindi la